Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza giovedì 14 gennaio del 2016. Questa è Visionari, l'appuntamento con il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Quest'oggi abbiamo un sacco di ospiti, quindi cominciamo un po' prima. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming sull'home page del sito internet della radio ondarossa.info, c'è Ascolta la diretta, e sul sito trovate anche tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione alla voce Trasmissioni Visionari. Idem per la pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ed eccoci con Stefano Finesi della Farfalla sul Mirino per parlarci della rassegna Destinazione Hollywood, la rivoluzione dei registi europei, al Palazzo delle Esposizioni qui a Roma dal 15 gennaio, quindi domani, fino al 28 febbraio. Stefano, ben ritrovato. Come va? Tutto bene, partiamo domani, siamo molto contenti, è una rassegna di un mese e mezzo, tutte le sere, e insomma i film sono uno più bello dell'altro e insomma in questo caso lo spunto è veramente interessante e anche attuale tutto sommato, perché racconta la storia di questi registi europei che negli anni 20 e 30, per vari motivi, soprattutto in fuga dalle dittature, ma anche a volte per motivi economici, si trasferivano in California e cominciavano a fare cinema a Hollywood, e di fatto hanno inventato Hollywood, insomma l'hanno resa grande, hanno fatto quel grande cinema classico che poi oggi tutti amiamo. E i nomi penso li conosciamo tutti, da Lubitsch a Fritz Lang, da Billy Wilder a Siodmak, Hitchcock, Murnau, Zinnemann, e appunto che erano tedeschi, austriaci, francesi o addirittura moldavi e polacchi, e hanno dato vita a questa stagione davvero irripetibile. Stavo pensando, oggi succede invece questo, che o Hollywood fa dei remake di successi europei oppure registi europei affermati si trasferiscono ad Hollywood, ma le ragioni sono un po' diverse da quel periodo. Stefano, volevo... Sì, le ragioni e anche i risultati, ahimè. Hai ragione, perfettamente. Senti, allora, si tratta di un mese e mezzo, raccontaci un po' quanti titoli e come sono suddivisi. Sì, sono 36 titoli, tutte le sere alle 21. Le proiezioni, come sempre per gli eventi dell'associazione, sono esclusivamente in pellicola 35 mm, che è una cosa a cui noi teniamo molto, e niente, ti ripeto, i titoli sono tanti e insomma andiamo dai grandi noir di Lang e Siodmak alle commedie di Wilder, ma anche ecco a un western come Mezzogiorno di Fuoco, che peraltro è buffo pensare che il western per antonomasia sia stato girato da un ebreo polacco, così come, non lo so, una delle icone del cinema americano, Marilyn con la gonna alzata in Quando la moglie è in vacanza, che è anche in programma, era un'invenzione di un austriaco come Billy Wilder, per cui insomma va in qualche modo veramente rivista in questo senso, in parte la storia del cinema americano, calcolando l'enorme contributo europeo. Cominciamo domani con Arianna, Love in the Afternoon, con Audrey Hepburn e Gary Cooper. Ecco, il giorno sarà sempre il venerdì? È tutte le sere. Ah, tutte le sere. No, è proprio questa volta, quindi venerdì Arianna, sabato 16 gennaio okay. C'è Ninochka di Lubitsch con Greta Garbo. Al giorno. Senti, sì. E gli orari? Gli orari fisso alle 21, l'ingresso è sempre libero, io consiglio sempre di venire insomma magari in largo anticipo, che i biglietti gratuiti sono in distribuzione dalle 20. Quindi magari ecco gli spettatori vengono in anticipo, prendono il biglietto, poi insomma magari mangiano e poi comodamente alle 9 possono entrare, perché c'è sempre veramente molta affluenza. Sì. Senti Stefano, il periodo, l'arco temporale coperto da questi titoli che periodo? Sì, noi in realtà alterniamo sia titoli americani sia titoli europei, quindi film girati ancora in Europa, per esempio, non lo so, faremo Destino di Fritz Lang, che è un muto storico dei primi anni 20, così come La bambola di carne di Lubitsch, quindi andiamo dai tempi del muto, sì, e fino poi più o meno agli anni 40 con qualche puntata nei 50 come è il caso di Arianna, o addirittura negli anni 70 con Prima pagina di Billy Wilder, e di cui peraltro faremo anche per i cinefili più oltranzisti la versione del 31 di Lewis Milestone con Adolphe Menjou, che Prima pagina è una commedia storica che teatrale che è stata poi rifatta anche da Hawks, peraltro, come La signora del venerdì. Sì. Quindi faremo sia quella di Wilder del 74 sia quella di Milestone del 31. Quest'ultima è veramente una chicca, insomma, una rarità, il 21 gennaio, sì, quindi giovedì della settimana prossima, mm-hmm, per chi vuole. Senti, ci dai a questo punto i riferimenti internet per la programmazione, per seguire tutto l'evento? Sì, c'è il sito di Palazzo delle Esposizioni, quindi www.palazzoesposizioni.it, oppure il sito dell'associazione www.lafarfallasulmirino.it. Bene, una bella occasione, io ti ringrazio sempre. Rivedere, riscoprire, veramente, certo, i film sono tutti meravigliosi. Insomma. Grazie Stefano, ancora grazie una a volta te, Federico, per le tue segnalazioni, un grande cinema su pellicola, su grande schermo, mi sembra un'occasione veramente ghiotta. Ci sentiamo, grazie, presto, un abbraccio. Un abbraccio, grazie Federico. Ciao, ciao, ciao. Questo Stefano Finesi della Farfalla sul Mirino, l'associazione la Farfalla sul Mirino, per parlarci della rassegna Destinazione Hollywood, la rivoluzione dei registi europei al Palazzo delle Esposizioni qui a Roma dal 15 gennaio, cioè domani, fino al 28 febbraio. Continuiamo a parlare di rassegne dopo il bianco e nero di Stefano Finesi, Destinazione Hollywood, si parla di Italia, si parla di documentari e si parla delle ultime produzioni con Maurizio Di Rienzo, curatore della rassegna Italia Doc 2016, sempre a Roma, la Casa del Cinema, questa volta dal 19 gennaio al 25 aprile. Maurizio, ben ritrovato. Grazie, il 25 aprile devo precisare una data importante, al di là di ogni retorica, importantissima, ma è fino al 5 aprile. Sì, allora ho letto male il comunicato non che mi ha inviato. Benissimo. Non ti preoccupare, così lo precisiamo. Sono molti appuntamenti, anzi per essere precisi dovrebbero essere 14 appuntamenti, di cui 5 ancora da definire, perché sono in febbraio e legati a film premiati, documentari premiati o segnalati particolarmente ai prossimi Nastri d'Argento, che si insomma terranno tra 20-25 giorni sicuramente, e quindi insomma sarà una rassegna integrata da questo, e ritorna dopo 2 anni di assenza per, penso, problemi anche della Casa del Cinema, e sono particolarmente felice insomma di continuare questo percorso che cominciamo nel 2006, e quando era direttore Laudati, adesso direttore Gosetti, e che quindi tra l'altro mi ha scritto una mail dicendomi che c'era una bella novità, forse intendeva proprio questa rassegna, mi ha scritto stamattina, non ho fatto in tempo a risentirlo, sì, ma immagino che volesse segnalarmi proprio la tua rassegna. Probabilmente sì, oggi credo ci partirà un comunicato da Zetema che governa il Palazzo delle Esposizioni, Casa del Cinema, Casa del Giallo, eccetera, però al di là di questo, molto sinteticamente, la scelta è rivolta a documentari che hanno avuto una distribuzione anche probabilmente a Roma, in qualche caso stati visti, ma in alcuni casi, in altri invece sono inediti per Roma dopo essere passati per molti festival di rilievo, e c'è anche un filo conduttore un po' venuto fuori non casualmente, fra conscio e inconscio. Comunque inauguriamo alle 20:30, orario speciale di inaugurazione, perché per il resto sarà alle 18 gli appuntamenti, il 19 gennaio, quindi martedì, con il film partecipato di Antonietta De Lillo, della Mare Chiaro Film, che ha curato questo Oggi Insieme, Domani Anche, sul tema della coppia doppia e del tempo che passa e delle ritualità o delle stranezze dello stare insieme, dei matrimoni, eccetera, con la collaborazione di ben 29 autori di brani, cioè di pezzi filmati che vengono da altri documentari o da filmini di famiglia, e per cui ci sono tanti altri registi coinvolti. Questo è il film partecipato, è il secondo che lei mette in campo, peraltro era il pranzo di Natale 3-4 anni fa. È un bel progetto e ho pensato di aprire con un documentario anomalo che è stato visto a Torino fuori concorso al Festival di Torino a novembre, ma che a Roma avrà e in altre città avrà una distribuzione da marzo in poi. Non solo un buon progetto ma anche un buon risultato, ho avuto modo di vederlo e conto anche di sentire Antonietta. Mi piace molto questo contributo allargato di diversi punti di vista, diversi stili e anche gli interlocutori scelti per quest'opera. Insomma, veramente un film articolato e molto interessante. Grazie, aggiungo che fra questi registi e altro c'è Maria Di Razza, Agostino Ferrente, Teresa Iaropoli, vedo qui nell'elenco Giovanni Piperno, Marco Simon Puccioni, Fabiana Sargentini, insomma Erika Tasini, insomma. Tra l'altro diversi di loro già sono stati attenzionati da Visionari, quindi per noi è una bella scoperta, insomma. Bene, mi fa piacere che tu condivida questo. E poi per quanto concerne invece il resto, ecco che ho seguito una certa inclinazione tematica. In che senso? Temi molto forti che per esempio vengono trattati da tre documentari che sono quelli Dustur di Marco Santarelli, Napoli Islam di Ernesto Pagano e poi Sponde di Irene Dionisio. Si tratta di immigrazione, si tratta di dialettica fra cristianesimo e Islam, si tratta di convivenza a Napoli per esempio di persone soprattutto italiane convertitesi all'Islam ma perfettamente rimaste se stesse nel loro percorso, e Sponde la storia di un'interfaccia fra un ex pescatore di Lampedusa e che si rivolge, scrive a un pescatore tunisino, e quindi in due sponde diverse, due mari sponde di un mare nel quale purtroppo sappiamo quello che accade, non sempre per fortuna ma spesso. E Dustur di Santarelli è un carcere di Dozza di Bologna dove lui aveva già lavorato, detenuti nordafricani con una guida più che spirituale, veramente logica e molto molto importante di un gesuita poliglotta, e che parlano di Costituzione italiana e di Corano comparati. Non mi sembra, è stato a Torino questo documentario, lo trovo molto molto interessante. Senti Maurizio, allora ci ricordi la cadenza e l'orario alle 18? Volentieri, la cadenza è bisettimanale, però in qualche caso per altri impegni diciamo salta l'appuntamento, ma il 19 abbiamo Oggi Insieme Domani Anche, giovedì 21 Dustur alle ore 18 con replica nel fine settimana, non so se il sabato o la domenica, e poi abbiamo successivamente il 26 gennaio L'infinita fabbrica del Duomo di Danolfi e Parenti al quinto documentario, che sono partiti dal Festival Cinema di Uriel, usciranno anche in sala dopo, e hanno, come fecero nel castello, molto bello, l'aeroporto di Malpensa di notte, hanno osservato il farsi ancora del Duomo, l'infinita fabbrica di Milano, e tutto quello che concerne i suoi meandri e i suoi percorsi non solo monumentali. È un lavoro di grande interesse, molto particolare. E ancora potrei segnalare a inizio di febbraio L'esercito più piccolo del mondo di Pannone, Gianfranco Pannone, perché viene da Venezia, è andato anche in televisione, però mi sembra che si possa discuterne un po' meglio, perché il film che racconta le tre guardie svizzere dal loro partire dalla Svizzera e arrivare a Roma e entrare in questo esercito di un molto piccolo e quasi senza armi del Vaticano, insomma uno sguardo su cose che in fin dei conti non abbiamo mai mai visto, e poi ce ne sono altri. Certo, ci sarà modo anche di riparlarne. Sì, Maurizio, altri. Io ti ringrazio di questa segnalazione, mi fa sempre piacere quando si tratta in special modo di documentari. Ricordiamolo, Italia Doc 2016, Casa del Cinema qui a Roma, dal 19 gennaio al 5 aprile. Al 5 aprile, martedì e giovedì. Abbastanza cadenzati più o meno con regolarità, e quindi sono molti molti appuntamenti. Un abbraccio, a presto. Grazie a voi. Ciao, ciao. Maurizio, ciao. Maurizio Di Rienzo, curatore della rassegna Italia Doc 2016. Parliamo ora di uscite in sala, ne parliamo con Stefano Bino, regista del documentario Vinicio Capossela, il paese dei coppoloni, in uscita in sala il 19 e 20 gennaio prossimi. Stefano, ci sei? Sì, ciao. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, è la prima volta che ci sentiamo. Da un libro di Vinicio Capossela siamo passati a un documentario, raccontaci di questo progetto. Sì, è un progetto che nasce dal libro Il Paese dei Coppoloni, e che però poi, essendo un documentario che abbiamo sviluppato in più mesi, a questo punto diventa quasi un ponte che porta verso il nuovo album di canzoni sempre legate al posto dei Paesi dei Coppoloni, che è l'Irpinia in cui Vinicio ha le sue origini, e questo nuovo disco uscirà a marzo. Quindi diciamo che il documentario, che ha delle canzoni originali del disco ed è ispirato al libro, è un po' un ponte tra le due cose, diciamo. Anche perché contiene per l'appunto inediti che rientrano nell'album di prossima uscita. Sì, assolutamente sì. Diciamo che tutto l'album, il libro, tutto questo decennio di lavoro che Vinicio ha fatto su questo mondo legato alle terre sue di origine si esprime un po' in musica, un po' in racconto, un po' nei personaggi che incontriamo. Diciamo che è anche un po' un documentario sui generis, non è proprio è molto surreale, come poi è abbastanza logico che sia quando si incontra un personaggio come Vinicio, diciamo. Senti, dicevi nel corso dei mesi, come avete proceduto, come si è svolto il lavoro? Ma abbiamo iniziato con una prima tranche di riprese che era più appunto legata al libro, però poi quando siamo arrivati lì in quelle terre e in quei paesi abbiamo capito che molte delle cose del libro c'erano lì, molti personaggi che sembravano di fantasia erano in realtà lì presenti. Adesso il caso più semplice per dirti è Maddalena e la banda della posta, che poi sono presenti anche in molti live che Vinicio fa, che sono presenti nel libro e che sono presenti anche nella realtà di quel paese. E quindi, essendo andati lì una prima volta, ci siamo resi conto che c'era veramente un mondo, un tesoro di volti, canzoni, personaggi, e quindi siamo tornati poi d'estate durante lo Spont Festival, poi di nuovo a novembre. Insomma, alla fine avremmo potuto andare avanti ancora, ma bisognava anche dare una fine a tutto ciò, diciamo. Senti, ci parli anche un po' di questo festival molto partecipato, come si vede dalle immagini? Sì, lo Spont Fest, che è più o meno sempre a fine agosto, quest'anno coincideva anche con i 25 anni di carriera di Vinicio, quindi c'era questo grandissimo evento sia nel festival, che era itineranti per queste valli a dorso di mulo, e sia poi c'era questo ultimo evento che era un concerto gigantesco in cui Vinicio ha invitato un sacco di persone, suoi collaboratori che avevano partecipato al disco. Senti, molta cura nella costruzione delle immagini, nella fotografia. Beh sì, sicuramente sono luoghi che hanno una luce molto particolare e che ispira tantissimo. Abbiamo lavorato tantissimo con luce a cavallo, quindi sfruttando i tramonti, le albe, ma ci sono dei cieli veramente notevoli, incombenti, che danno una luce che appunto, anche per esempio avendo girato una parte a marzo e poi a novembre, c'era comunque una continuità che dava una dimensione unitaria al documentario, diciamo, al racconto. Sì. E poi valli, paesini, e veramente sono luoghi in cui proprio ci si va a nozze quando si va a fare delle riprese in quei posti. Stefano, un'uscita di due giorni per la Nexol il 19 e 20 gennaio, come sarà articolata? Ma sono attorno a 150 sale in tutta Italia che proiettano in questi due giorni. È una scelta distributiva che Nexo fa già da tempo, alternativa a una tipica distribuzione in sala spalmata su più settimane o almeno una settimana, diciamo, che secondo me è molto valida e rappresenta forse anche un'ipotesi che può funzionare su determinati prodotti cinematografici che altrimenti non troverebbero una distribuzione nelle sale. Scusami, le sale è possibile trovarle sul sito dell'Anexo, c'è tutta la lista di tutte le sale che in Italia lo proiettano. Senti, per saperne di più, c'è un riferimento internet? Guarda, in realtà la cosa migliore secondo me è su Facebook andare nella pagina Vinicio Capossela, perché da lì vengono, oppure nella pagina Nexo di Facebook, perché stanno inserendo anche dei piccoli pezzi del film, il trailer, alcune recensioni che ci sono state in questi giorni, quindi lì è, diciamo, la parte in cui si può vedere più cose progressivamente fino a quando arriveremo al 19-20 delle proiezioni. Stefano, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a sentirci presto. Crepi, grazie mille e a presto, grazie di avermi chiamato. Bene, a presto, ciao. Wow. Stefano Bino, regista del documentario Vinicio Capossela, il paese dei coppoloni, in uscita in sala il 19 e 20 gennaio. Lorenzo Pezzano, regista del documentario Sperduti nel buio. Lorenzo, ben ritrovato, se non sbaglio, perché ci siamo già sentiti su queste frequenze, vero? Sì, esattamente. Ciao a tutti. Sì, noi ci siamo sentiti, credo, circa un paio di anni fa, per i televisionari. I televisionari, si torna insieme a distanza di un paio d'anni per un film, un documentario, con parti d'animazione. Ti faccio i complimenti per questo lavoro, ho avuto modo di vederlo qualche giorno fa e ho voluto subito entrare in contatto per parlarne. Uno dei tanti crimini del nazifascismo è anche poco conosciuto, ossia la scomparsa di un archivio di film italiani conservati nel centro di cinematografia qui a Roma, giusto? Esattamente, ovviamente è ben poca cosa rispetto a crimini di guerra e a quello che è stato, insomma, che è stato compiuto in quegli anni, però per il cinema italiano si è trattato di una piccola tragedia, perché oltre 300 pellicole, 300 film sono andati perduti. Ovviamente non tutti erano copie uniche, però tra queste alcune erano invece film mai più trovati. Certo, di cui esistono solo in alcuni casi alcune foto di scena, ma insomma poca cosa. Esattamente, infatti Sperduti nel buio, che dà anche il titolo al nostro documentario, è un film del 1914, quindi un film che è stato prodotto più di 100 anni fa, che è forse il titolo più conosciuto e faceva parte di questi 300 film che il centro sperimentale utilizzava come materiale di studio per gli studenti. Sì. Quindi erano film che venivano proprio visionati dagli allievi. Tra l'altro una parte erano riusciti a nasconderla prima dell'arrivo dei nazisti, però insomma la maggior parte delle pellicole sono andate sequestrate, caricate sui treni e poi andate perse. Esattamente, si trattava fondamentalmente di bottino di guerra, perché questa prassi veniva attuata anche negli altri paesi occupati dalla Germania. E purtroppo appunto i film che erano stati messi in salvo erano purtroppo film americani, quindi che non avevano un grosso valore storico. Senti Lorenzo, come sei venuto a conoscenza di questa storia e come hai deciso poi di trasformarla in documentario? Beh, allora, come spesso accade, è stata una casualità. Io appunto vivo e lavoro a Venezia e nel 2007 sono venuto a conoscenza dell'esistenza di un rudere che ospitava negli anni 40 la Scalera Film, La Scalera Film era una società di produzione romana che negli anni della Repubblica di Salò installa degli studi di posa nell'isola della Giudecca qui a Venezia. E si trattava appunto di una casa di produzione legata in qualche modo al fascismo, che in questo brevissimo periodo che va tra il 43 e appunto la primavera del 45 produce o quantomeno tenta di produrre dei film qui a Venezia. Questa storia si intreccia con i film trafugati al centro sperimentale, mentre appunto un patrimonio di film di pellicole uniche si perdeva purtroppo nei territori appunto della Germania, qui a Venezia si cercava con questo improbabile tentativo di far continuare l'attività di Cinecittà, che era stata trasferita con Uomini e Mezzi qui a Venezia. Senti, nonostante poi questa ricerca che tu segui filmando non abbia prodotto i risultati sperati, però ha avuto sicuramente il merito di far conoscere una storia e ha portato anche a una conoscenza sia a voi che ci avete lavorato, sia i protagonisti stessi a loro insaputa di questa vicenda. Beh sì, in effetti noi abbiamo sviluppato il documentario man mano che abbiamo proceduto con la ricerca, quindi quando abbiamo cominciato non sapevamo fino a che punto avremmo trovato degli indizi, e grazie insomma all'abilità di Dennis Lotti, che è l'investigatore e ricercatore protagonista del nostro documentario, siamo riusciti ad avere delle risposte che portano addirittura all'ipotesi che non tutti questi materiali siano andati perduti, e cercando questi Dennis ne ha trovati degli altri. Ha trovato alla Cineteca di Mosca, luogo fino a pochi anni fa inaccessibile soprattutto a una troupe di un documentario, ha trovato dei film italiani, dei film muti di inizio secolo, di inizio Novecento, ritenuti scomparsi, quindi in qualche modo una vittoria in tal senso c'è stata. Secondo la legge della serendipity, no? Esattamente, esattamente. E poi ecco, aggiungo una cosa, in qualche modo Dennis Lotti ha preso le redini di una ricerca cominciata negli anni 70 dallo storico, insomma, da Gian Piero Brunetta, che appunto aveva iniziato in un periodo sicuramente in cui l'accessibilità a certe cineteche era sicuramente inferiore, aveva iniziato appunto questa ricerca dei film perduti. Ecco, c'è da dire che negli ultimi anni esiste una rete, si è creata una rete di ricercatori in giro per il mondo, quindi questo ha sicuramente facilitato e facilita il ritrovamento di film ritenuti scomparsi. Il tutto arricchito anche dalle animazioni. Sì, allora l'animazione è stata appunto un'idea che è nata un po' in corsa. Volevamo appunto ricostruire dei momenti, uno fra tutti il trafugamento di queste pellicole al centro sperimentale, di cui però appunto non esistono fotografie o testimonianze filmate, quindi abbiamo pensato di trasformare il pensiero e le ipotesi che man mano faceva Dennis Lotti in questa animazione. Esistono però dei documenti scritti su questo sequestro? Sì, allora ovviamente la fase delle riprese è stata preceduta anche da ricerche nei polverosi archivi del centro sperimentale e non solo, dove cominciano a saltare fuori documenti ufficiali o meno con liste che ci hanno permesso di fare poi di effettuare dei confronti con i film che sono conservati nelle cineteche d'Europa. I documenti sono pochi e sono pochissimi anche i documenti filmati. Una delle grosse difficoltà è stata appunto reperire i materiali di repertorio che appunto farciscono il nostro documentario. Senti Lorenzo, per saperne di più anche rispetto a un eventuale calendario di proiezioni o partecipazioni a festival o distribuzione in sala, dove si può cercare in rete? Allora, esiste una pagina Facebook che è appunto Sperduti nel Buio e un sito, una pagina web che è appunto sperdutinelbuio.com, dove cercheremo di tenere insomma aggiornati quanti ci seguono su prossime proiezioni. Ecco, al momento il documentario che è stato coprodotto con Rai Cinema è stato appunto messo in onda su alcuni canali Rai. Attualmente non esiste una distribuzione DVD, ma spero che a breve questo sia possibile. Bene, allora di nuovo complimenti Lorenzo, spero di sentirti presto, non dopo 2 anni. Ah, ok, esatto, farò qualcosa a breve allora. Un abbraccio, a presto, ciao. Grazie. Ciao, ciao a tutti. Lorenzo Pezzano, regista del documentario Sperduti nel buio. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Continuiamo a parlare di documentari, questa volta di scuola pubblica in un'eccellenza nell'area napoletana. Ne parliamo con Lorenzo Cioffi, regista del documentario Tempo Pieno. Lorenzo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico, ciao, ciao a tutti. Allora, raccontaci un po' di questa storia. Allora, questo documentario, io sono un ex alunno di questa scuola pubblica, quindi elementare, e quando c'è stata quindi l'occasione è sempre stato nei miei sogni raccontare, testimoniare di questa esperienza non ordinaria, straordinaria di scuola pubblica, e appena c'è stata l'occasione ho deciso di fare un documentario che raccontasse, testimoniasse di questa esperienza, non tanto nella dimensione di incensare questa scuola in maniera diciamo fine a se stessa, ma certo, con l'intento di raccontare che può esistere una scuola pubblica funzionante e del valore potenziale della scuola in tempi in cui si parla molto spesso esclusivamente di aspetti diciamo finanziari, gestionali, amministrativi e raramente di aspetti pedagogici, che poi sì, in realtà dovrebbero essere quelli principali. Senti Lorenzo, come nasce questo questo laboratorio didattico, chiamiamolo così, e quali sono i suoi punti qualificanti? Allora, questa scuola nasce così come fino agli anni 70, quando un gruppo di maestre legate dalla comune militanza nel movimento di cooperazione educativa, che era un movimento che faceva ricerca e formazione continua sulla scuola, sul senso della scuola, sull'insegnamento, ha avuto l'occasione di lavorare e insegnare tutte nello stesso plesso, e questo ha fatto sì che si è potuto nel corso degli anni mettere in pratica un metodo sperimentale che fondamentalmente consiste in una costante sperimentazione che pone al centro il corpo nel processo educativo e l'esperienza diretta nel processo educativo. Penso che questo sia il concetto fondamentale, che poi è declinato in tanti modi, anche perché è una scuola in costante evoluzione, per cui prende a modello metodi famosi come Montessori, Steineriano, ma non ha un modello unico di riferimento, è in costante divenire, diciamo. Sì, è tutto legato chiaramente alla curiosità e alla ricerca dei docenti. In realtà fondamentalmente sì, che hanno avuto negli anni, soprattutto fine 70, 80, inizio 90, è stato probabilmente il momento migliore della scuola in cui questi docenti potevano sostenersi a vicenda, grazie alla comune passione, al fatto di insegnare tutti nella stessa scuola. Credo che questa sia stata la chiave per cui una scuola del genere ha potuto esistere. Senti, a decenni di distanza come si è evoluta la storia di questo istituto e com'è la situazione attuale? Allora, non diciamo che l'essenza di quel momento non è replicata allo stesso livello oggi, certo, perché comunque c'è stato un ricambio generazionale, per cui non necessariamente poi i nuovi insegnanti che sono arrivati dopo hanno mantenuto quello stesso tipo di provenienza, background culturale o anche passione nel fare questo lavoro, per cui c'è un misto di istanze diverse. Quindi la scuola continua a essere una eccellente scuola, ma diciamo tra virgolette si è normalizzata, perché comunque poi è fatta dalle persone una scuola, e cambiando le persone cambia anche la scuola. Senti, che storia ha avuto invece questo documentario? Parteciperà a festival? Avrà una distribuzione o altro? Allora, il documentario ha partecipato e ha vinto il Napoli Film Festival lo scorso settembre nella sezione dei documentari, e poi è andato in onda su TV 2000. Inoltre ha avuto una serie di proiezioni, diciamo evento, spot in tutta Italia, e continuerà questo suo giro itinerante nelle sale italiane attraverso una piattaforma che si chiama Movie Day di Cinema on Demand, sì, diciamo, che sì, permette sì, sì, al pubblico di diciamo lanciare, proporre la programmazione di un determinato film o documentario. Bene. Senti, allora Lorenzo, complimenti per questo lavoro, speriamo di sentirci presto. Ti ringrazio, Federico. Un abbraccio, ciao. Ciao, ciao, ciao. Lorenzo Cioffi, regista del documentario Tempo Pieno. Eccoci con Lucio Basadonne, co-regista del documentario Unlearning. Lucio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie a tutti. Allora, anche in questo caso ho avuto modo di vedere il documentario, ho voluto prendere contatti per parlarne qui in trasmissione. Raccontaci di questa avventura, Lucio. Il documentario racconta sei mesi di viaggio fatti in famiglia, quindi io, mia moglie e mia figlia, senza quasi l'uso del denaro, quindi usando tutti quelli che sono i metodi dell'economia di condivisione, da più semplice passaggio col quale ci ha alzato old school a BlaBlaCar, quindi a usare internet, a usare i siti di scambio lavoro, tutto questo per riuscire a organizzare un viaggio a costo zero in famiglia e scoprire realtà di famiglie completamente diverse dalla nostra famiglia di città, classica famiglia che ognuno si alza la mattina, fa la sua vita lavorativa e poi si trova stanca la sera a condividere un piatto riscaldato. Senti, lo stimolo come era venuto? Allora, lo stimolo è un po' la goccia che fa traboccare il vaso, è un disegno di Gaia, la nostra bimba, che ha disegnato un pollo con quattro zampe, ma semplicemente perché non ne aveva mai visto uno vivendo in centro città, vedeva solamente la scatola di polistirolo con quattro cosce che arrivava nel sacco del supermercato, quindi così si era immaginato un pollo, no? Quindi era quello il vero mondo che volevamo trasmettere o era un altro? Da questo è nato la nostra messa in discussione di un sistema. Senti, poi strada facendo in questi sei mesi avete incontrato varie realtà, e tra l'altro sono tutte elencate con riferimenti internet al termine del documentario sui titoli di coda. Ecco, in questa ricerca credo una parte determinante sia dovuta ad internet, a questa capacità di far mettere in rete, in condivisione diverse esperienze. Sì, sì, internet è fantastico per questo, perché permette a tutte le persone che magari la pensano un pochettino diversamente di mettersi in contatto e connettersi. Ad esempio c'è un bellissimo sito, si chiama Italia che cambia, che proprio mette insieme tutte le realtà che stanno facendo qualcosa di diverso. Non è vero che in Italia non c'è nulla, noi stessi eravamo partiti per cercare un modello diverso di famiglia fuori dall'Italia, in realtà poi ci siamo rimasti perché abbiamo trovato tutto quello che cercavamo, dalla scuola familiare all'ecovillaggio al co-housing. Ecco, proprio lo cercavamo in Belgio e invece l'abbiamo trovata a Firenze, è stato meraviglioso. Ecco, ne hai accennato alcuni esempi, ecco, soprattutto per chi ci ascolta, raccontaci un po' qualcuna di queste realtà, magari quelle che vi hanno più sorpreso. No, c'è il documentario, quindi non vorrei bruciarmi troppo, no? Certo. Diciamo che posso dire quello che abbiamo, noi abbiamo poi scelto dei modelli in base, dei posti in base a modelli di non delega, quindi c'è un posto che rappresenta ad esempio la non delega dell'istruzione alla scuola, c'è un sì, posto che rappresenta la non delega del cibo al supermercato, un altro rappresenta la non delega del parto all'ospedale, la non delega di un apparato esterno al nostro lavoro, il circo. Ogni posto è un modello. Sì, sì, sì, a parte possibilmente riproducibile, questo è un altro dato, cioè non ci sono cose assurde fuori dalla portata di un essere umano. Certo che dal dire e fare c'è di mezzo è il, come diceva Elio. Senti, però non c'è, non è ancora un problema quello che siano comunque realtà un po' marginali queste? Ad esempio, di queste realtà marginali 10 anni fa ce n'erano 12, adesso ce n'è 1200. Quindi si stanno sviluppando. Sì, sono mappate, una volta non era possibile, sono tante e prima o poi diventeranno un numero critico, mi auguro, in un pensiero positivo momentaneo. Senti, più o meno, quante persone coinvolgono queste realtà? Non, questo non sono in grado di, non so, sono un documentarista, non ho uno studioso. Però perlomeno quelle che hai visitato tu, si parla di centinaia di persone. Sì, sicuramente sì. Sicuramente sì, non tutte in una comunità, ci sono dai 15 alle 200, no? Poi c'è probabilmente un numero critico entro la quale entrano fuori dei modelli che sono i soliti, però ci sono tantissimi modelli in tutti i modi, basta mettersi a cercare, mettersi in ricerca e disimparare, come dice il titolo del documentario, quello che era il nostro modello che noi abbiamo dato per buono, quello che ci è arrivato dai nostri genitori o dalla vita che vediamo tutti i giorni, provarne un altro e tornare indietro e vedere l'effetto che fa. Questo è un po' il nostro racconto. Senti Lucio, per voi è stato sufficiente il periodo di 6 mesi o siete tornati con magari l'idea di cambiare radicalmente e quindi fare un passo importante? Sì, ma piano piano, facciamo passettini, non siamo quelli che vendono e dicono sì, adesso prendiamo un camper e libertà, no, facciamo le cose con calma, senza nulla che contro chi fa questo, no, ognuno il suo approccio al cambiamento, no? Sì, l'importante è che rimanga tempo a sufficienza. Senti, sono realtà che interessano un po' tutta l'Italia, da nord a sud, dalla città alle province? Ci sono posti sicuramente molto più sensibili, che sono la Sicilia, la Sardegna, che sono, ci siamo stati, però abbiamo tantissimi contatti, Toscana, Emilia e Marche, principalmente. Senti, sono strutture... Molti movimenti anche in Veneto. Sono strutture auto-organizzate o hanno anche rapporti con le istituzioni? I posti in cui siamo stati noi principalmente erano persone che volevano vedersi, volevano raccontarsi, quindi cercano il raffronto col mondo, con le istituzioni. Chi non cerca raffronti con le istituzioni raramente permette a un videomaker, alla sua famiglia, di entrare e filmarlo, no? Sì. Senti, mi dicevi che in questi giorni è in programmazione il documentario. Sì, noi siamo il primo film distribuito in Italia col sistema del cinema on demand, ovvero sia, c'è un sito, si chiama movieday.it, che ha un sacco di cinema sempre in crescita che fanno parte di questo circuito. Io, oppure un qualsiasi spettatore, cosa fa? Sceglie il suo cinema. Ad esempio, voi siete dove? A Roma, c'è il cinema dei piccoli, sceglie il cinema dei piccoli, quando? 23 febbraio, che cosa? Unlearning a che ora? Alle 21, e automaticamente si crea questo evento sul sito. Sì. Non è detto che questo sito, secondo me, che questo evento si farà, tu che crei l'evento, in questo caso io produttore, devi sbatterti un attimo a fare pubblicità e dire guardate che voglio portare Unlearning al cinema dei piccoli alle 21 perché è un film importante, mi faccio un po' di pubblicità, bla bla bla eccetera, e magari faccio intervenire anche la mia associazione che racconta che cosa stiamo facendo noi per cambiare. Vendi i biglietti del cinema e il cinema è contento perché ti dà un monte, no? Ti dice devi vendermi 36 biglietti, quindi tu copri le spese al cinema, tu hai uno spazio in cui fare la tua proiezione, il tuo evento vero e proprio, le persone e il cinema magari recupera in un martedì sera che non aveva nessuno, tu puoi praticamente creare un evento senza rendere infelice nessuno. Quindi noi con questo metodo qua abbiamo preso tutti i cinema di Movie Day, tutti, li abbiamo fatti occupati con la cassa, abbiamo detto c'è il nostro film e abbiamo cominciato. Siamo a Roma il 2 gennaio al cinema dei piccoli, quello spettacolo del 20:30 è già sold out, quindi tutti i biglietti via. Ne abbiamo aggiunto il 2 febbraio, scusami. L'1 febbraio, perché avevi detto gennaio, 2 gennaio che è passato. Sono un po' cotto perché ieri era proiettare il film in Brianza, oggi torno su a proiettarlo a Milano, quando possiamo noi lo proiettiamo, facciamo dibattito col pubblico. Tra l'altro Movie Day noi li abbiamo ospitati e il documentarista che abbiamo sentito poco fa, Lorenzo Cioffi per Tempo Pieno, anche lui utilizza Movie Day e mi sembra che sia una formula che stia andando bene. Beh sì, perché non altrimenti io dovrei trovare un distributore che distribuisce un documentario così di, certo, di settore come il mio. Nessuno si prende la briga di fare un investimento. Io neanche non posso, perché magari dovrei pagare il cinema e dargli 300 euro per avere la sala e proiettare il mio film. Mm-hmm. In questo caso io chiedo alla gente: tu lo vuoi vedere? E la gente dice sì, bene, prendi il biglietto e lo vedrai. Tu non lo vuoi vedere, lo spettacolo non si fa, è molto democratico, no? E non ci si può lamentare e dire cioè che cotelone in tutte le sale. No, io la sala 5 la faccio uno spettacolo e ci metto un learning. Se la gente non vuole vederle perché non lo vuole vedere, non ci sono più scuse. Bene, bene. Allora, mi sembra che sia un'esperienza molto interessante. Lucio, complimenti anche per il lavoro, è sicuramente stimolante. Ricordiamolo, Unlearning. Semplicemente disimparare.it, ci arrivate lo stesso all'italiana. Ah, benissimo, disimparare.it per chi volesse avere informazioni. Lucio, un abbraccio e a risentirci presto. A tutti voi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Lucio Basadonne, co-regista del documentario Unlearning, disimparare.it, il sito internet. Ancora documentari, questa volta Luciano Toriello, regista del documentario Le vite accanto, è un titolo tutto attaccato, giusto Luciano? Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, grazie. Sì, Le vite accanto è tutto minuscolo. Senti, raccontaci un po' di questa storia. Sì, dunque, Le vite accanto è nato, l'idea è nata tre anni fa all'incirca, ed è nata con Annalisa Mentano, con la quale ho ideato la storia. La voglia era quella di conoscere un piccolo borgo in provincia di Foggia, dove io abito, che si chiama Borgo Mezzanone. Il perché è nato dall'idea di conoscere meglio il centro di accoglienza per richiedenti asilo politico, che dal 90 ha aperto e ha ospitato tantissimi ragazzi. Una volta insomma, arrivati al CARA, abbiamo seguito tantissime storie, solo che la mia idea era quella di non raccontare il CARA, ma tutto quello che c'è attorno. E grazie ai mediatori culturali abbiamo conosciuto le storie di tanti ragazzi che dormivano nelle case occupate, nella pista occupata della NATO, dietro al CARA, e così abbiamo cominciato a sondare un po' il territorio. Mm-hmm. Poi diciamo la vera storia, il punto di vista reale del film è nato quando nei vari luoghi abbiamo preso la circolare che portava da Foggia al centro accoglienza. E saliti sull'autobus che ci era stato sconsigliato dagli artisti perché ci dicevano che era pericolosissimo, io quello che ho notato era lo sguardo di questi ragazzi perso nel vuoto, nelle campagne del tavoliere. Ad un certo punto salgono anche dei ragazzini, e questi ragazzini erano completamente integrati, giocavano, scherzavano sull'autobus, provocando così una reazione molto forte da parte dei ragazzi che prima avevano lo sguardo perso, poi si sono ripresi e hanno cominciato a sorridere. Così a quel punto ho cominciato a pensare che potevamo raccontare proprio questa storia, le cose che mi accomunavano a questi ragazzi, e così ho deciso di raccontare prima la condizione dell'essere genitori e figli, che è una condizione universale dell'uomo. Senti, per allora intanto quanti sono stati i vostri interlocutori più o meno, e che ritratto, che mosaico ne emerge? Allora, noi abbiamo avuto tantissimi interlocutori. Io ho girato gran parte del film senza telecamera perché ho parlato con tantissimi ragazzi. Sì. E quello che è emerso è che, almeno per quelli che ho conosciuto io, che ci sono tantissimi ragazzi che soffrono per problemi semplici, quelli legati alla quotidianità che noi neanche consideriamo. Io ho conosciuto Roger, che è una delle storie che fa parte del documentario, e Roger mi diceva che da quando era nata sua figlia lui non l'aveva mai vista. Roger, la cosa che mi ha fatto sorridere e decidere di, di mettere Roger, diciamo, protagonista del documentario, era che la figlia è nata lo stesso giorno di mio figlio. E tutti e due, a quel giorno, per varie coincidenze della vita, non avevamo ancora visto nostro figlio. A quel punto ho visto Roger con gli occhi lucidi mentre gli raccontavo questa storia, ed era assurdo come in quel momento era diventato lui il regista ed io l'attore. E quindi è venuto fuori un ritratto, secondo me, di grande umanità tra la gente. Io ho fatto, in questo film ho conosciuto persone meravigliose, ho avuto, insomma, ho tanti amici in più adesso. Senti, però inevitabilmente la domanda è anche rispetto alle condizioni di vita nel CARA, visto che insomma questa radio si occupa di CIE spesso e malvolentieri, però insomma bisogna farlo, insomma. No, ma figurati, anzi è importante mettere in risalto anche questo. Quando siamo entrati nel CARA abbiamo visto che le condizioni, soprattutto in quel periodo, erano abbastanza estreme, perché stavano arrivando vari barconi anche da Lampedusa, quindi quello di Foggia è diciamo un centro di accoglienza dove arrivano subito da Lampedusa, ed era molto pieno, ma le condizioni igieniche peggiori sono quelle che stanno attorno, che i ragazzi che sono espulsi dal CARA, che cercano di farsi una vita, perché loro nel frattempo che questo benedetto documento non arriva, non possono lavorare perché non hanno i documenti, e quindi tendono la fortuna cercando di raggiungere le loro famiglie fuori dall'Italia. Magari molti non ci riescono e sono costretti a tornare, però a quel punto sono espulsi dal CARA e sono costretti a vivere nelle baracche che proprio circondano il centro di accoglienza. Lì c'è proprio una pista militare della NATO scusate, dove ci sono tantissimi container dove loro vivono, e vi giuro fa freddissimo in estate, in inverno, e caldissimo in estate, è irrespirabile, è invivibile la situazione, ed è un vero peccato, perché questi sono ragazzi che insomma hanno una grandissima forza di volontà, però poi se vengono bloccati così, stroncati sul nascere, non hanno proprio le condizioni di vita necessarie per cercare un lavoro, per vivere bene, insomma. Senti, Luciano, la condizione al momento nella tua zona delle persone migranti è in aumento, in diminuzione, e condizioni di vita sono migliorate, sono peggiorate? Insomma, dici un po'. Allora, in questo momento la situazione è, diciamo, di solito è in estate che aumenta l'emergenza, però in questo periodo l'emergenza si sta verificando sotto un altro punto di vista, perché non so se sapete, cioè sicuramente magari lo sapete, nella zona di Foggia ci sono vari ghetti, uno è quello che ho raccontato io a Bolzanone, poi c'è quello che è venuto più fuori a livello mediatico, che è il ghetto di Rignano vicino San Severo, è appena arrivata notizia che sono comperati, al momento proprio ieri gli è stata tolta l'acqua e i bagni chimici, quindi sono stati messi in una condizione di invivibilità assoluta, però non è stato pensato ancora a dove saranno mandati questi ragazzi, questo è il problema più grave, quindi metterli per la strada, quindi creando pericolo sia per loro che per tutti, insomma, è impensabile fare una cosa del genere. Io ho avuto modo di vedere quest'estate al Clorofilla Film Festival il documentario, volevo saperne, per chi è interessato, dove si può cercare in rete e se c'è un programma di proiezioni pubbliche o distribuzione. Allora, ci potete trovare su Facebook, la pagina delle Vite Accanto, e noi abbiamo avuto la fortuna di fare moltissime proiezioni in quest'anno che è uscito il documentario, grazie soprattutto a molte associazioni che ci hanno aiutato così a diffondere il nostro messaggio. Al momento siamo disponibili, siamo andati ovunque, in scuole, cinema, associazioni, in strada, ovunque ci hanno invitato. Saremo la settimana prossima a Monza per la giornata del migrante, poi di nuovo qui a Foggia, e insomma siamo disponibili a essere invitati ovunque. Ovunque ci invitano. Bene, bene. Allora, un in bocca al lupo, Luciano. Speriamo di sentirci presto per una prossima novità. Ok, grazie mille. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao, Luciano. Ciao, ciao, ciao a te. Luciano Toriello, regista del documentario Le Vite Accanto. Massimiliano Cocozza, regista del documentario La Spada Invisibile, benvenuto a Visionari, Massimiliano. Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Allora, La Spada Invisibile, si parla di immaginario dei non vedenti, raccontaci un po' di questo lavoro, Massimiliano. Allora, questo lavoro nasce da una domanda che molti si sono fatti nella storia, ovvero cosa sognano i ciechi? Diciamo che da questa domanda il ragionamento è stato quello di cercare di capire alla base della mente umana che cosa costruisce le immagini che noi immaginiamo, e quindi cercare questo confine fra l'immaginazione e l'immaginario, considerando che chi non ha mai visto o semplicemente ha visto in un'epoca lontana possa costruirsi un mondo e esplorare come è fatto questo mondo, insomma. Questo viaggio, come hai proceduto per trovare i tuoi interlocutori? Mi sembra molto variegata anche il gruppo di persone che hai avuto modo di contattare. Ma diciamo che la lavorazione che è ancora in corso per certi versi, nel senso che stiamo ancora facendo qualche piccolo ritocco al mix, qualche piccolo ritocco di color correction, ma siamo, insomma, in realtà stiamo già proponendo ai festival il road cut, e in realtà noi abbiamo fatto una lista considerando i non vedenti congeniti, quindi quelli che sono nati senza la possibilità di vedere, dividendoli per fasce d'età, sesso e possibilmente anche status sociale, nel senso per coprire più una casistica più larga possibile. In realtà abbiamo girato circa 80 ore di materiale e siamo stati supportati dalla Consulta Disabili di Trieste e dall'UICI, dall'Unione dei Ciechi della sede di Pordenone, e poi abbiamo seguito una settimana di corso di mobilità e orientamento tenuta da Corrado Bortolin, che è un esperto che insegna all'università sia di Udine che di Roma, e abbiamo preso, diciamo, poi abbiamo fatto una scelta su quello che ci sembrava fosse più non interessante quanto, diciamo così, rappresentativo del mondo dei ciechi. In realtà questo vuole essere un documentario, diciamo, non vittimistico, e si chiama per questo La Spada Invisibile, perché punta anche a fare comprendere, a fare capire che la disabilità può essere anche un punto di forza, sì. E quindi individuare quello che può essere nella vita di un non vedente la scoperta del mondo e portarlo al pubblico come un piccolo viaggio, appunto, nel mondo dei ciechi, senza vittimismo e con una certa leggerezza, non senza la coscienza ovviamente di una condizione di disabilità. Infatti, come si vede nel tuo documentario, intanto per loro è un'esperienza molto importante la condivisione con altri ciechi della loro esperienza, e poi il potenziamento, per esempio, degli altri sensi, e poi lo sviluppo anche di attività che sembrerebbero in teoria precluse a loro. Esatto, sì, diciamo che c'è un precedente, che è il film di Soldini, che è stato coprodotto anche col fondo della Torino Film Commission, che si chiama Con altri occhi, e che è molto simile per certi versi, anche se ha un taglio molto più cinematografico e meno esplorativo, però i ciechi vanno, insomma, i non vedenti, poi, insomma, ecco, questo anche loro non amano molto questa diciamo maniera politica di corretti di definirli, loro paradossalmente si definiscono ciechi, non vedenti. Sì, perché non vedenti non piace, è stata la prima cosa che ho pensato, perché dà proprio subito l'impressione di un deficit, mentre ciechi è proprio un'altra condizione. Esattamente, bravo, esattamente questo. E poi, appunto, vogliamo dire a tutti gli ascoltatori che spesso noi discriminiamo senza accorgercene, quasi per timore, no? Di una condizione che non conosciamo e in cui riteniamo che siano quasi mezzi uomini o mezze donne, che magari non hanno storicamente e questo insomma è riconosciuto, è un diritto alla sessualità o una vita sentimentale o una vita normale. Invece la notizia è che i ciechi no, non solo hanno una vita sessuale o una vita sentimentale, ma vanno in barcavela, vanno a cavallo, nuotano in piscina, insomma giocano a baseball addirittura. Giocano a baseball, ho visto nel documentario. Giocano a baseball, certo, certo. E tra l'altro è una cosa che è partita qui dalla sede di Bologna e che sta prendendo piede in tutta Europa e probabilmente riusciranno anche ad esportare questo sport in America, cosa che si sta cercando per espandere e fare capire che in fondo, insomma, l'uomo è uomo e la sua dignità e immaginazione che risiede nella fondamentale capacità di costruire un immaginario, quindi di avere un'immaginazione, non ne soffre, anzi paradossalmente acquista qualcosa in più, appunto, che noi abbiamo così simpaticamente chiamato spada invisibile. Sì, sì. Massimiliano, mi dicevi che ad oggi è inedito, ecco, qual è il futuro per questo lavoro? Il futuro per questo lavoro dovremmo capirlo andando avanti, purtroppo. Noi sappiamo che ad oggi è candidato Edevi di Donatello, non so quante speranze abbiamo, visto che la concorrenza è agguerritissima e sono film molto più ricchi in termini di budget, di professionisti, di quello che è stato il nostro piccolo film. Attualmente stiamo facendo un lavoro di distribuzione dedicata ai festival, prevalentemente quelli del documentario, ma come sappiamo il documentario è stato sdoganato, quindi un po', diciamo, ha messo un piede nel cinema vero e proprio, anche se la grande distribuzione sicuramente non avrà un particolare interesse. Mm-hmm. Stiamo organizzando comunque con l'Unione Ciechi Italiana, di cui è cambiato il presidente, che in questo momento è Mario Barbuto, con il quale stiamo conversando per capire se, diciamo, questo taglio di presentazione può arricchire, fare capire meglio ed essere possibilmente anche, diciamo, trovare una distribuzione nelle varie sedi dell'Unione Ciechi e i Povedenti Italiana, e magari speriamo anche di trovare un contesto internazionale sempre in quell'ambito, e sperando che i festival che oggi come oggi, dei quali molti oggi come oggi, diciamo, hanno una linea sul cinema d'Uriel, sul film d'Uriel, cioè il film della realtà, possano apprezzare. Ad oggi, diciamo così, stiamo procedendo e non siamo in condizioni di dare delle date e quindi questo è lo stato delle cose. Però ci puoi lasciare dei riferimenti internet per chi volesse informarsi e saperne di più? Ma i riferimenti internet del sito che racchiude la mia attività in particolare è www.f come Firenze, c come Como, movies, con scritto in inglese movies.eu, dove tutti gli ascoltatori possono comunque trovare il percorso che è stato fatto fino ad ora ed anche tracce di questo film che ancora, finché è inedito, insomma, non sarà possibile vedere per intero, ovviamente, e che poi comunque non avrà almeno a breve una distribuzione in rete. Comunicheremo comunque sul sito, appunto, tutte le novità, le news, sperando che trovi un parterre, un contesto interessante nel quale debuttare. Allora, un abbraccio Massimiliano, speriamo bene e speriamo anche di risentirci presto. Grazie e un buon ascolto di Radio Onda Rossa a tutti gli ascoltatori. A presto, ciao Massimiliano. A presto. Massimiliano Cocozza, regista del documentario La Spada Invisibile. In collegamento con Ruggero Di Paola di Good Films sulla distribuzione del film Il Labirinto del Silenzio, al quale abbiamo dedicato la copertina della trasmissione di questa settimana, in uscita in sala il 14 gennaio, cioè oggi. Ruggero, ben ritrovato, era un po' che non ci si sentiva, quasi un paio d'anni, Ciao Federico. Ciao, ben ritrovato. Ciao a tutti. Allora, un film importante, raccontacelo un po', Ruggero. Allora, il film è ambientato nel 1958 a Francoforte. C'è un procuratore, Radman, che è il protagonista del film, che si imbatte in alcuni documenti che lo aiutano a dare via al processo contro alcuni personaggi pubblici che avevano prestato servizio ad Auschwitz. Tuttavia nessuno ha voglia di ricordare quel periodo, e gli orrori del passato e l'ostilità che il protagonista avverte nei confronti del suo lavoro lo portano quasi vicino all'esaurimento. Infatti è quasi impossibile per lui trovare una via d'uscita da questo labirinto, visto che sembrano essere tutti coinvolti e tutti colpevoli. È un film dossier molto efficace, molto bello, che con Good Films abbiamo comprato a maggio dell'anno scorso al Festival di Cannes, credendo molto sul progetto, perché all'epoca, a maggio del 2014, il film non era ancora pronto, abbiamo visto un promo e ha avuto un bel percorso, tra l'altro appunto è entrato anche nella shortlist dei 9 candidati agli Oscar. Mm-hmm. Ruggero, io tempo fa ho avuto modo di occuparmi personalmente del processo Priebke qui a Roma, e ho trovato delle similitudini impressionanti tra la Germania e l'Italia. A partire dal fatto che molti di coloro che si sono macchiati di crimini nel nazifascismo poi si sono riciclati anche in ambienti istituzionali, poi la rimozione collettiva che è seguita all'orrore del nazifascismo, e poi a riaprire il caso a Roma, per esempio, fu un procuratore, anche in quel caso procuratore militare Antonino Intelisano, che scoprì il famoso armadio della vergogna, nel quale erano racchiusi centinaia di fascicoli riguardanti crimini sul territorio italiano. Insomma, mi sembra che le similitudini siano davvero tante e importanti. Sì, è così, sono d'accordo. E tra l'altro, appunto, adesso la Germania ammette e grida ad alta voce, no, anche la propria responsabilità per la Shoah, però all'epoca c'era veramente una sorta di rimozione. Nel 49 il cancelliere Adenauer infatti appoggiava la reintegrazione massiva, soprattutto nella funzione pubblica, dei cittadini rimossi dagli incarichi perché erano coinvolti con il regime nazista. Senti, è curioso anche il fatto che sia, insomma, un regista di origini italiane a creare questo caso cinematografico sulla storia tedesca. Sì, è vero, infatti lui è italiano e è di Milano, si è trasferito con la famiglia quando aveva, credo, 4-5 anni in Germania, e poi a tutti gli effetti ha fatto un film da tedesco, conoscendo molto bene la storia ed essendo molto radicato lì. Sì. Senti, che tipo di distribuzione ci sarà del film? Guarda, il film è stato il marketing si è avviato già da tempo, e con il traileraggio e altre forme di promozione in televisione. Uscirà in tutta Italia nel primo weekend di uscita in 30 copie circa. A Roma ti posso dire che uscirà sicuramente da oggi lo troveremo a Quattro Fontane, all'Eden, al Madison, e poi a Fiumicino, all'UCI, e poi ci saranno altre sale di Roma, comunque esce a Firenze, Torino, Milano, insomma, una distribuzione in tutta Italia. Ruggero, che tipo di riscontro ha avuto a livello internazionale? No, ottimo riscontro, come ti dicevo, ha avuto anche un percorso festivaliero molto interessante. Gli Stati Uniti sono stati molto molto attenti al film, ha fatto un ottimo incasso e ha ricevuto ottime recensioni di critica sia in Francia che in Germania, quindi confidiamo anche in una, dopo le ottime recensioni che ha ricevuto il film, confidiamo anche in una calorosa accoglienza del pubblico qui in Italia. Ruggero, io ti ringrazio, ci sentiamo per le prossime novità. Grazie a te, un saluto a tutti. Buon a presto, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ruggero Di Paola di Good Films sulla distribuzione de Il Labirinto del Silenzio, in uscita in sala oggi, giovedì 14 gennaio. Luca Di Prospero, regista del documentario Spero Bar, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Luca. Ciao, ciao a tutti, ciao. Anche in questo caso è un documentario che sono riuscito a vedere, mi andava di parlarne e quindi ho preso contatto con te. Si parla di emigrazione italiana negli Stati Uniti, in particolare a New York. Dici un po' di questa avventura. Dunque, è un progetto nato quasi per caso, nel senso che ho vinto un bando della Regione Lazio che si chiamava Movie Up, che prevedeva una work experience all'estero. Da qui è nata la voglia di fare qualcosa di più che una semplice esperienza in America, e io e mia moglie abbiamo ideato questo documentario di italiani che si trovano a New York. Spesso anche conoscenti, perché noi io sono un attore, mia moglie anche, siamo degli attori, e mi sono reinventato quindi regista intervistando molti colleghi, diciamo, che si trovavano lì in cerca di, appunto, una nuova speranza, e abbiamo trovato un po' di tutto, italiani di tutti i tipi. E la cosa che, diciamo, ci ha incuriosito molto è stata la loro ricerca di trasferire un made in Italy in America, una cosa particolare, nel senso che i primi emigranti che cercavano fortuna in America si portavano un pezzo dell'Italia come nostalgia, e questi nuovi emigranti sembrano invece portare il desiderio degli americani, la loro prospettiva, le loro idee di che cos'è un italiano, quindi portano tutto ciò che è il made in Italy come viene inteso dagli americani, sia nel cibo, la musica, l'abbigliamento, sì, sono tutte caratteristiche che gli americani vogliono vedere in italiano, e quindi sembra che adesso il marchio made in Italy sia la chiave per entrare in un sistema comunque molto complicato e molto difficile, che è quello americano, e che è la città di New York, che comunque rimane una città molto faticosa, difficile da vivere, anche dispendiosa, molto costosa, e quindi questi italiani un po' che si arrabattano tra di loro, che si fanno forza tra di loro, e infatti noi trovavamo spesso degli intervistati del documentario che si conoscevano casualmente, diceva: ma come ti ritrovi te? Sì, dico, ci conosciamo tutti. Sembrava, appunto, quelle comunità finiscono per frequentarsi molto, moltissimo, sì, e sì. Tanto quasi anche magari un aspetto negativo, cioè quasi che non hanno rapporti con i newyorkesi, sembra quasi che si parli solo italiano, no? Quindi ti ritrovi magari in ristoranti o comunque locali frequentati magari da soli romani o da soli, sembra di essere a Torpignattara improvvisamente, dici: ma com'è possibile? No, invece siamo sulla Fifth Avenue, cioè, quindi abbastanza particolare. Allora, e questo è quanto, sì, come, diciamo, taglio, ho cercato di dare, ci ha incuriosito questa cosa qui in particolare, ecco, questa nuova speranza, oltretutto, che loro hanno di cambiare la vita, cioè la speranza, l'entusiasmo che sembra essere perso in Italia sembra ritrovarsi improvvisamente, anche se magari, appunto, non sono i soliti classici cervelli in fuga che sono magari laureati, si tratta un po' di tutto e di più, diciamo, sì. E alle volte basta la speranza, quindi, per risultare in qualche modo più vivi rispetto all'Italia, ecco. Ecco, rispetto a quello che hai trovato, il settore comunque più forte sembra continui ad essere quello della ristorazione, però ho visto che, a differenza poi del questo rispetto all'integrazione tra virgolette, rispetto per esempio ai primi immigrati italiani, parlo di parecchi decenni fa, basti ora invece una sola generazione per quasi recidere i legami con l'Italia. Intendi, diciamo, rispetto a quell'epoca lì, rispetto a quelle persone che non... Sì, diciamo, si tratta veramente di un nuovo tipo di italiani, veramente quasi sono diventati, gli italoamericani sono diventati ovviamente più americani, hanno un ricordo dell'Italia molto romanzato, diciamo, sì. Nel senso che non l'hanno mai vista, tra l'altro, hanno questi ricordi dei genitori, dei nonni che prendevano il caffè in quel modo lì mettendo la scorza di limone, e si ricordano dei particolari così, o delle pizze rustiche che venivano fatte dalle nonne, che provengono da una cucina di potenza, ecco, e quindi e si ritrovano invece a vivere una realtà totalmente americana. Questi nuovi italiani invece, appunto, come ti dicevo prima, portano un po', non direi quasi un cliché, però ecco quello che l'americano vuole sentirsi dire, o quello che l'americano vuole vedere di un italiano. I primi, diciamo, non si adattavano a questa idea, credo, e anzi, appunto, finivano per crearsi delle comunità come Little Italy, come tante altre, Bensonhurst e tante altre, che invece erano dei ghetti, poi alla fine, sì, esatto. Oggi, diciamo, può capitare la stessa cosa in modo diverso, appunto, cioè finiscono poi per frequentarsi tutti quanti tra di loro, ma però vendendo comunque un'idea non così originale, non così italiana, perché hanno capito che quella funziona, che quella in qualche modo permette di vivere di più in una società così difficile e agguerrita come quella americana, come quella newyorkese. Senti Luca, quello che li accomuna, stando al tuo documentario, è comunque una considerazione molto amara sulle possibilità che offre oggi il nostro paese, e invece sulle chance che si trovano di fronte in un territorio nuovo e poi cosmopolita come New York. Sì, diciamo che il regalo più bello che loro poi riescano a ottenere a New York è la speranza. Il documentario si chiama Spero Bar per due diversi motivi. Una signora intervistata italoamericana fa di cognome Spiro, quindi in quel modo lì è un'associazione, e ci sembrava interessante che ognuno di questi personaggi, anche nella difficoltà di vivere una città come New York, perché poi appunto non è che tutti quelli che vanno lì riescono ad avere una fortuna, è una città spietata, però la speranza, che è anche la carta che l'America gioca nei confronti di chi decide di vivere questa realtà, è presente in tutti loro. Questa è forse la parte principale, è la caratteristica principale che ognuno di loro riesce a ottenere rispetto all'Italia. L'Italia, l'amarezza è più che altro quella di vedere che l'Italia non riesce a dare speranza. Un paese come l'America, come New York, invece, anche nelle mille difficoltà, perché molti comunque fanno i camerieri, non riescono magari a vivere, la qualità della vita non è così alta come in Italia, però la speranza che domani succederà qualcosa di nuovo, domani ci sarà un'opportunità in più da cogliere, questo purtroppo in Italia non l'hanno mai sentito, e quando arrivano in quel territorio lì finalmente dice: è arrivato il nostro momento, è arrivato il modo per riscattarci almeno dal punto di vista di una speranza nuova, di un entusiasmo anche che non avevamo più. E infatti nessuno vuole tornare, anche se magari soffre molto, certo. Nel vivere una realtà molto dura. E questo è, diciamo, quanto. Senti Luca, in chiusura, per chi volesse saperne di più, dove si possono avere informazioni online sul documentario, sul suo percorso? Allora, dunque, il documentario è stato, diciamo, ho provato a mandarlo ai vari festival, in questo momento stiamo ancora continuando. Io ho una pagina Facebook che è Luca Di Prospero Filmmaker, nel quale metto tutto il materiale, tra cui anche quello di Spero Bar. Spero presto di trovare una distribuzione anche piccola, e diciamo all'interno di questa pagina pubblicherò sicuramente le proiezioni future, ecco. Bene, allora ti ringrazio ancora, complimenti, grazie a voi. E a risentirci presto. Ciao. Grazie ciao mille, Luca. Grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao. Luca Di Prospero, regista del documentario Spero Bar, e con lui chiudiamo l'appuntamento settimanale con Visionari. Torniamo giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info.